Ormai si è capito che non esistono gli extraterrestri che ci vengono a salvare. Ormai la mia unica speranza è nell'intelligenza artificiale. Sarà più logico, tutto sarà normale, senza l'imprevedibile intervento naturale, tutti interconnessi a livello molecolare, nanobiologia nel tessuto cerebrale, potremo volare con gli occhi delle aquile. Capire il canto delle balene. Onde gravitazionali e l'anima degli animali. Saper di matematica e fare salti eccezionali. Sentire quel che sentono tutti gli altri esseri umani. Non aver nemici e non sentire. Mai più strani, entreremo in connessione con l'universo, il senso dell'amore. Ormai si è capito che non esistono gli extraterrestri che ci vengono a salvare. Ormai la mia unica speranza è nell'intelligenza artificiale. Canto delle balene. Entreremo in connessione con l'universo e il senso dell'amore.